morir, si dovete morir. Madama, soldi ti darò dereste, il gigante papal delle tempeste, la vecchia Europa al novello oceano. Guerra farà, guerra farà, guerra farà sul dall'uragan. Eccoli a far, eccoli a far, in mezzo ai lampi e ai tuoni a far, eccoli a far il gigante del mar. Vedi flutti salir fino al ciel, morro l'empio farro senza vel. Morro, morro, morro senza vel. Quel terror, quel terror, Ortula sul mar presto, che incrocia la tempesta, all'albergo aggrappate, tutti scatenate. Over ingoiati dall'onda profonda, dovete perir, si dovete perir. Si dovete perir, si dovete perir.